Sto pensando a te mentre cammino, mentre parlo, mentre rido, mentre respiro. Sto pensando a te mentre mi sveglio, quando corro tutto il giorno. Sto pensando a te mentre mi spoglio di ogni orgoglio, mentre guardo il mio destino. Sto pensando a te quando ricordo, mentre ancora sento il tuo profumo. Pensando a te mentre ricordo quando ancora sento il tuo profumo.